L'asse scolorito, cosa nasconde una porta chiusa o cosa protegge? Quando ci vuole una porta chiusa, aprir lo spazio, offrir la luce, cosa ricorda una porta chiusa, un uomo nascosto? Che cosa c'è dentro una porta chiusa? C'è una storia nuova da raccontare, con uomini, donne, cose, un mondo che parla del mondo, qualcosa da ascoltare. Si chiama Close. Che cosa vuole di fronte alla porta? Che cosa cerca? Perché vuole entrare? Che cosa spera dal tempo? Quest'uomo si chiama Close. Che cosa chiede al tempo che viene? Che cosa cerca? Perché vuol passare? Si chiede come e perché la porta è chiusa. Close è fatto di curiosità. Close è ingegno, voglia di superare. Circonda il mondo, terra da conquistare. Il limite che circonda il mondo, terra da conquistare. Qualcosa da raccontare.